avanti, che c'è sul 10? Avanti. Attenzione, canale 10. Chi è? Attenzione sul canale 10. Fresco, fresco, fresco. Avanti. Ciao Giovanni Sacco da questa, con chi parlo? Luca da questa parte, Sassari via l'Italia. Vabbè, la mia ricezione non fa testo perché sto modulando con una piccola magnetica sul terrazzino attaccata allo stendino, quindi quello che ricevo io non fa testo. Guarda, già io sono una piccola magnetica, un esperimento. Da che zona sei? Adesso sto al rifornitore, questo qua subito dopo la come si chiama? L'Agip di Parigi, si chiama questo, sì, l'Agip. Dopo il video di Dialitalia. Allora è la Kuwait di Piandanna, vicino all'Agenzia delle Entrate. Hai ragione, Kuwait, ci avevo rifornito l'altro giorno, hai perfettamente ragione, sì, Kuwait, quella. Cappa, allora in linea d'aria non siamo neanche lontani. No, ma adesso si è entrato, perché poco fa ero in ascolto, non sentivo nessuno, sto vedendo la Macomer e l'avevo acceso, ma proprio non c'era nessuno. Cappa, ho acceso proprio ora che sono rientrato a casa. Ho capito, ma ho sentito che la sera c'è stato un po' di movimento, no? Io non ne stavo più accendendo. Sì, qua sul canale 10 di solito dalle 6 e mezzo sino alle 8 trovi diverse persone, ci sono giornate che siamo anche tanti. È buono, dai, buono. Ma tu sei in barra pesante? No, leggera, una vetturetta, sono dovuto andare laggiù a fare una commissione, un colloquio di lavoro, via. E niente, e visto che ero lì a Macomere, mi sono portato questo baracchinetto, è un Midland 5000, no, Intec, è un Intec 506, 507, una cosa del genere. KK. 34 canali, Già va bene, almeno se trovi qualcuno c'è compagnia su strada. Sì, poi ci sono anche gli altri, ma li volevo piazzare sulla barra pesante adesso, la prossima settimana. Prezzi 10. Stai iniziando a sparire in mezzo al QRM, deve essere che ti sei spostato. Adesso in linea sono proprio uscita a Santa Maria. Mi senti ancora a cambio? Sì, ti sento ancora. Ti dicevo, il video di Olmedo Alghero, quello ho fatto adesso. Però oramai non riesco più a capirti, ti sento troppo lontano. Capivo, che ne so. E così fai anche un esperimento per la tua. Metti cambio. Mi ascolti? Sono 2-3, mi ascolti, cambio. Non ti ascolto, tu mi senti? Avanti, chi c'è sul 10? Male, ma sicuramente neanche tu senti a me, perché vedo... C'è qualcosa? Andando male. Non si capisce niente. Ascolti? Abbassa un pochettino l'amplificazione del microfono. No, non è... Ora se mi ascolti adesso? Sei tutto sciattolo, tutto fischiato, chi sei? Roberto, sto provando una radio qua, non è la mia. Non ho capito. Roberto, sono, ma non è la mia radio, è un'altra radio che sto provando. Roberto. Ciao Claudio, anche io ho capito così, Roberto. Non ci capisce niente, un'altra radio che stai provando, la stai provando. Non stai uscendo. Non stai uscendo. Franco, mi ascolti, cambio. Guarda un po'. È tutta fischi. Me ne sono accorto che è fischi. Sì, ma cosa stai provando? Cosa stai usando? Cosa stai usando, Robè? Non risponde. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Cla, e anche io lo sento saturo al massimo, e rumori, fischiati, e insomma, non si capisce. E evidentemente qualche radio che non va. Cosa vuoi che ti dica? Ho sentito in lontananza che c'è qualcuno, forse c'è Luca, però non ho capito bene. Questa è la radio mia. Questa è la radio tua, è l'altra, la pazzia è un gomolo. Ma l'ho portata a provare, ma c'ha problemi, fischia, rientri, l'assorbimento c'è ma è sorda, no? Non si sente. Ho fatto i confronti commutando le due antenne, quando il segnale è a me 9,20 quello è 7, quando il segnale è 9 è 3,4, proprio non c'ha problemi. Ma che radio è? Delle nostre o un baracchino? Delle nostre, ho 14. Poi 140? No. Problemi forti c'è allora, non sono difetti del 140 quelli. C'è questo fischio di rientro, oppure ho cambiato alimentatore, ho messo quello grosso, stavo provando un alimentatore da 20 ampere e stava fischiando. Ho detto aspetta, metto quello da 60, è uguale, non è cambiato niente, c'è qualche problema in questa radio, glielo dico al proprietario. A voi ci ti puoi comprare pure o ci fa la collezione? 140, ma che non me lo regalo, perché non mi è mai piaciuto a me come radio. Mi pare che il 140 mio, non mi è mai piaciuto perché c'ha quel cavolo di slide, io ho sempre 440 o tutte le altre che già sai tu. È un baracchino a cinturia continua, non ha niente di più che un baracchino, però la cinturia continua e c'è la potenza che serve, per il resto non serve a nulla a FHF, quasi. Beh, già lo so, ho provato anche in banda laterale e non riusciva neanche, c'ha problemi questa radio, è arrivata tanto tempo ferma, mi ha detto fammi la prova tu con le antenne tue e vediamo un pochettino, ma te lo dico, fallo vedere a qualcuno perché è sordo, non eroga tutta la potenza, all'inizio sembrava le erogasse la potenza, poi è sceso, nello smite si abbassa la luce, non lo so per quale motivo, prima ha dato 100 watt, anche più di 100 ne indicava lo strumento, dopodiché col watt metterò quello serio, su 40 watt sta parlando. Allora vabbè, sappiate sempre una cosa, non smetterò mai di dirvelo, ok? Tu sei un radioamatore da un po' di anni, hai la tua esperienza anche 27, però quando parliamo di queste radio, soprattutto il 140, lasciamo perdere il 440 che già è una radio particolare, ma il 140 e 680, ok, che sono due conversioni, quando si tiene fermo un po' di anni e non si accende, non si prende, si attacca all'alimentatore e si fa la prova, si lascia almeno 24 ore in stand-by acceso, dopodiché dopo 24 ore fai la prova, ok? Perché sono convinto che quella radio non c'ha niente, va tenuta accesa almeno un paio di giorni, ok? A volume basso, a tensione giusta, eccetera, possibilmente anche senza antenna, e poi attaccata l'antenna e fate le prove. No, questo è già stato fatto, 3-4 giorni l'ha tenuto acceso 24 ore su 24, però lui se ne è accorto che la radio non sta andando, dice non mi ascolta nessuno, sento tutti in basso, ha detto fai la prova tu a casa tua, che io ho il 440, sto facendo i confronti di segnali, 940, S9 di lì S4, 920 e di lì 7-8. Hai visto se c'è l'attenuatore inserito? No, non c'è niente, proprio neanche di coso, no, ti sto dicendo, c'ha problemi, io come schiacciavo portante sentivo un fischio, ho detto che strana questa cosa, poi le luci si abbassano, deve avere qualcosa che non funziona bene. Vabbè, tenendolo così fermo può darsi qualche componente è andato a farsi forte, vabbè. Non so di chi sia, io ho i 140 che ci sono a Sassa, li conosco tutti, quindi vabbè che ce ne sono pochissimi, questo non so se è un radioamatore qualcosa. No, non è radioamatore, e poi vabbè, mentalmente li proponiamo, quel 44 già dato l'anno? Il 44 ce l'ho io. Ma l'hanno dato? Ce l'ho io, ti ho detto. Ah, quindi ce l'hai tu, non è venduto ancora, voglio dire. È già venduto, ce l'ho io, ti ho detto, me lo sono preso io, per quel prezzo me lo sono preso io, e funziona meglio dell'altro pure, no? C'è una ricezione che è una bomba, una trasmissione, è perfetto. È perfetto, per quel prezzo me lo sono tenuto io, Robè. Non me frega niente, ce ne ho due. Ma è un prezzo troppo basso per poterlo vendere. Sì, sì, no, certamente. Io il 440 l'ho sempre... Mi ha dato tutto il primo, già ti ricordi. Una grande radio. Scusa Carlo se stiamo monopolizzando, me l'ho dimenticato che c'eri anche tu. E grazie dei controlli che mi hai dato anche tu, sentivate quel disturbo. Vabbè, no, il 440 non ce n'è per nessuno, il 27, solo il 430 si può avvicinare, però non ha le memorie che c'ha il 440. Beh, non ha le... il 430 è sempre un due conversioni, il 440 è un tre conversioni, ok? Quindi questo te lo posso dire con molta tranquillità, perché è dal 1987 che uso quella radio, perciò mi sono fatto una bella cultura. Il 440 è quello più superiore, sia il 430 che sia 80 e 100, 104 e 70, poi sono uguali, sia 80 c'è solo la scheda dei 6 metri in più, ma le caratteristiche sono quelle, non cambia assolutamente niente. Mentre tra il 430 e il 440 c'è la doppia conversione, però come modulatore ti posso dire che il 430 e il 440 lo supera in trasmissione, come ricevitore superiore al 440. No, non lo sono tenuto io, Robè. L'ho tutto pulito, ordinatissimo, non ha problemi e funziona molto bene, infatti lo sto testando in 40 e 80 e c'è anche una bellissima ricezione, va bene, lo sono tenuto io. Per quel prezzo non puoi darlo, capito? Assolutamente, assolutamente, va bene. E l'alimentatore niente? No, non l'ho sentito ancora, non l'ho sentito. Io l'alimentatore sto usando il mio, il PS50 mio, quell'altro no, non l'ho ancora sentito, ma devo andare tanto ad Alghero la prossima settimana, le telefono, ci vediamo, me lo faccio dare, perché devo prendere altre cosette che servono a delle persone, poi ti dirò, quindi devo prendere anche altra roba. Se solo se accende ti dà anche più tensione, dagli 20 euro, se riesci a far trovare un regalo va bene, solo dagli 20 euro. L'importante è che accenda, se non accende ce lo bene. No, accendere me l'ha fatto vedere, accende, ma c'è una tensione allucinante, ci deve essere il ponte di diodi che è partito, qualcosa del genere, cioè, capito? Qualcosa del genere è scoppiato dentro, perché poi si è messo a toccare, lui a fare, ho visto che ha fatto l'aperto, ho visto che ha fatto un ponticello dove c'è il fusibile. È già successo a me un affare del genere, su questo che io me l'aveva riparato Fabrizio, capito? Quindi se vai a toccare lì c'è un po' di sotto e fai casino, fai. Cappa, avanti Carlo, scusa il monopolio. Non ti preoccupare, sono qua al computer, infatti sentivo questo segnalone forte ma non si capiva niente, poi ho sentito Roberto ma non mi sembravi nemmeno tu, perché, capito, se no... evidentemente quella radio ha qualcosa che non va. Non ti preoccupare, Robè, già ero qua al computer controllando se mi trovo una Panda 4x4 di quelle che facevano prima. Ma quale? Le Panda quella a 2 sportelli o a 4 sportelli, a 5 sportelli? E anche a 2 o a 4, a 5 di sportelli, se la trovo una, perché di nuove mi sa che non ne fanno più di quelle. Allora, noi abbiamo la Panda, vabbè, non la vendiamo mai, la venderemo di mio padre, ricordo, che c'ha pochissimi chilometri, una Panda, le vecchie generazioni, le vecchie Panda, quelle a 2, a 3 sportelli, diciamo, a 3 porte, che hanno fatto la 750, la 900, 1100, la 3100. Dopo di quella poi è uscita quella a 5 porte, che va bene lo stesso, è abbastanza alta, magari in certe situazioni va meglio l'altra, che è più leggera, però anche quella si difende bene. Poi è uscita l'altra con il giunto viscoso a controllo elettronico, quella in certe situazioni proprio di scarsa aderenza si difende bene lo stesso, ma diciamo se sento qualcosa ti faccio sapere, dai, qualcuno me l'aveva detto, proprio Panda voi, ed è una grande macchina. Sì, da usare. Aspetta, beh, che ti chiamo al telefono. Sì, ok, claro. E fare escursioni, capito, è giusto per quello, senza comprare qualcosa di nuovo, capito? Se trovo usato a buon prezzo me la prendo subito. E ti faccio sapere qualcosa, normalmente chi ce l'ha se le tiene, cacca, c'era una che è morto il proprietario, una Country Club ci aveva, bella, c'aveva il motore multijet 1300 che poi è morto. Scusa il telefono, attimo. Sì, va bene, poi me lo fai sapere anche per radio, per WhatsApp, robe. Avanti Claudio. Attento Carlo, Carlo mi ascolti, cambio. Avanti, chi è sotto? Carlo mi ascolti? Ripeti che ti sento molto basso. Chi sei? Giovanni Franco. Giovanni? Ho capito bene. Positivo Carlo, positivo. Oh, ciao Giovanni, ti sento molto basso però, in mezzo al tuo RM, ti tiro fuori. Lo so, tutto... Sono sempre incasinato come al solito io, Carlo. Dove sei? Da che parte sei, Giovanni? Platamona. Ah, Platamona sempre, sempre Platamona. Ma sei in barra mobile oppure sei con l'antenna fissa? Barra mobile leggera, leggera. Ah, ho capito, sì. Ti sento, capito, il segnale 3, capito, è radio così, è 3 lo stesso, però già ti capisco e ti tiro fuori, Giovanni. Va bene, Carlo, mi ha fatto piacere, dai, che sono arrivato, ci sentiamo, alle prossime, ciao Carlo. Ciao, ciao, alle prossime, Giovanni. Luca, ci sei? Buonasera, Luca da questa parte. Ciao Luca, Carlo da questa. Ti ho sentito prima, però poi stavano facendo dei controlli Claudio con Roberto e quindi magari sei rimasto fuori. Come va dalle tue parti via l'Italia? Poco fa stavo iniziando ad assemblare tutto, che domani mattina se non piove mettiamo su il pennacchio. Ah, buono, buono, quindi dopo tanto ti è arrivata. Sì, è arrivata, tutto lo stilo l'ho già assemblato ed è coricato su, sull'astrico solare. E domani piazzo tutto, la metto su. Buono, così magari ti sentirò anche meglio. Sì. Domani, non lo so, domani in effetti ha messo brutto tempo, capito? Però può darsi che magari qua non sia solo nuvoloso e non piova e magari ti dà la possibilità, ma se ti metti di buona lena intorno alle 8:30, alle 9 del mattino, quando mai, in un paio d'ore dovresti riuscire a finire tutto. Ma io penso che di metterci 20 minuti, perché alla fine è già tutto pronto, non devo fare altro che stringere quei bulloni delle staffe sul palo, tirar sul palo, bloccarlo e mettere in tira i tre tiranti che ho messo in cordino, giusto per tenere il palo un po' più fermo, e basta, poi giù il cavo che scende è già tutto passato, è già tutto collegato. Sì, allora in un'oretta, dai, in un'oretta forse anche meno riesci a fare tutto, capito? Quella mi sa, la tua antenna c'ha tre radiali che collegherai alla fine, capito? Poi tiri su tutto, colleghi il cavo e dovresti essere a posto per domani sera. Sì, l'unica cosa che c'ho da fare è saldare il PL in testa al cavo di su, perché se mi basta voglio tagliare il cavo a 11 metri esatti e ce li ho segnati. Ho capito, sì. Vediamo un po' domani, dai, se io già domani sera dovrei esserci, capito, intorno a quest'ora più o meno, perché tanto domani sera poi c'è Cagliari-Juventus alle 20:45, quindi sicuramente sarò a casa domani sera, perché quando mi vedo le partite, diciamo, da prima mi organizzo la cena, così come inizia la partita io inizio a cenare e così faccio guardando la TV e mangiando, e per cui prima sarò qua un po' alla radio se c'è qualcuno nella mia piccola postazione col computer, capito, a fare quattro chiacchiere. A te Luca. Sicuramente forza Juve, è vero? C'era Claudio, ci sei ancora? Si deve essere spostato Claudio. E Roberto lo stesso, gli è arrivata una telefonata e quindi già entreranno più tardi o prossimamente. Va bene, adesso io mi faccio una cosetta e sto in bianco, già sono in ascolto, perché mi servono tutte e due le mani, quindi stacco un attimino e poi Nel caso ci sentiamo tra un quarto d'ora, 20 minuti circa, Luca. Ok Carlo, con comodo, io lo stesso rimango in ascolto perché mi sa che non c'è più nessuno. Piuttosto se senti in giro qualcuno che sta vendendo un po' di vitamine, potrei essere interessato. E Luca, devi ripetermi cos'è che stai cercando? Delle vitamine che diano un po' più di vigore a queste radio. Ah sì, ma roba piccola o roba grande? Perché ho qualcosa anche io, Non lo so, eccessivamente grande no, perché non è che devo fare lo stravagante, ma per uscire un po' meglio qualcosa sarei interessato, poi dipende da cosa si prova e si valuta. Sì, non ti preoccupare, ricordamelo dopo, che così guardo e ti dico cos'ho, ma dovrei averne un paio io. Uno sicuramente è anche nuovo, l'avevo preso per la macchina. Massimo ti dà un'ottantina se lo alimenti con 4-5 watt, capito? Dovrei averlo io, è anche in ottime condizioni perché l'ho usato sì e no un paio di mesi, ce l'avevo in macchina e poi non l'ho più usato. Qua in postazione vado solo con i watt della radio per adesso e quindi va bene. Dai, fammi sapere e domani dopo che piazziamo l'antenna vediamo come esce e nel caso gli diamo un po' più di vigore. Ci mettiamo d'accordo, mi fai sapere subito e magari ci prendiamo un caffè e me lo ritiro. Vediamo un po', dai, fammi sapere. Ma buon lavoro, allora ci sentiamo più tardi se coincide. Va bene, poi ti faccio anche sapere la marca e modello che nemmeno me lo ricordo. Dovrei trovare anche forse le istruzioni da qualche parte. Va bene, fammi sapere, a tuo comodo. Scappa, più tardi Luca, ci sentiamo dopo, ciao. Che? Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Ora? Ciao Gianni, 10 minuti, sto finendo una cosa. Eccoci qua. Ciao Claudio. Chi è? Gianni, avanti. Mi sembravi un'altra persona. Mi sembravi un altro. Tutto bene? Sì, perché c'è una caramella in bocca. Ho capito. Va bene. C'era anche Carlo, ma non c'è più. Carlo, perdona, ci sei? Ehi Acla, sto finendo una cosa e mi servono due mani. Continuate, già riprendo tra un attimo. Usa la terza mano, quella di mezzo. Adesso è chi se la va. Ah già. E che più la va lo vecchi? Allora, un magaglio. In automatico. Allora, tocchi sotto, down, e lui fa le manovre che deve fare. Ci ha pagato. Tutto elettronico. Via. Segnale è sempre uguale, sì, perché anche stasera ho provato e mi sono rotto le palle. Addirittura, sai cosa ho fatto? Mi è venuto il dubbio di sbagliare i collegamenti. Sono andato su internet e passo per passo l'ho fatto, proprio lo scalo. Ah già, attualmente c'ha problemi quell'aggeggio lì, c'ha problemi, c'è qualcosa in corto e ti manda chiaramente in corto lo strumento e tutta la situazione della trasmissione. Non si muovono i batti, ma con lo scala solo lo strumento sensazionale, là, è rosso. Appunto, perché è in corto, quindi stai attento che non ti faccia casino, te l'ho già detto. Rinunciaci, pazienza, fammi andare al ghiero, quando vado all'alghiero, ma la prossima settimana, domani, sabato e domenica non ci vado. La prossima settimana quando vado all'alghiero me lo faccio dare quel cosettino e te lo usi. Non ti preoccupi, neanche altre due, adesso me li faccio avere anche altre due, c'è un BV131 e un BV132, me li faccio avere, li tengo qua, magari se capita qualcuno che le serve, e io non me ne voglio nulla. A voi piacerò più trasistorizzati che i valvolari devi sacciare di valvole, gli su di te, invece per i trasistorizzati vanno bene lo stesso, occupano meno spazio. Io perché non ce l'ho tanto solido? Io c'ho un amplificatore che ho tolto le valvole che costano 200 euro l'una, ok, due volte con quelle 1000 bolle, la carta e le ho conservate. Il lineare è nello scaffale valvolare, capito? E me l'ho comprato l'RM Italy dell'E2800, che ho rotato solido, ho fatto tutto da solo, cambio di banda, cambio di tutto, non devi duca nuda, ovunque tu vai lui funziona sempre. Comunque mi stai sempre accordando. E poi che cazzo, 200 di luna è valvole, insomma, e non ti compari un altro apparecchio con quei soldi di... Ma infatti se le bruci è un casino, me le aveva fatte avere il vannino, costano un pacco di soldi quelle valvole lì, capito? E quindi non conviene usarne, anche perché consuma un sacco di corrente, mentre lo stato solido non ne consuma corrente. Poi il mio ha 24 volts, c'ha il suo alimentatore a 24 volts, ce l'ha anche Andrea, uguale precisione col mio, lo stesso con l'alimentatore a 24 volts, vanno benissimo, non bene, benissimo, alla grande. Quale l'RM Italia 24? Sì, c'è a 12 e a 24, io ce l'ho a 24 volts. E allora mi aveva messo la scelta, entrata da 10 o da 20 watt, io gli ho detto da 10 perché non pensavo di usare la PV, ci ho fatto male. No, io c'ho 30 watt d'ingresso, 30 watt, è regolato con l'HF, con l'ICOM, 30 watt d'ingresso, belli, secchi, perché essendo una radio digitale non ha i picchi di modulazione come può essere un 440, un 140 eccetera, regolato 30 watt, 28, meno di 30, e lui eroga 500 watt in SSB. È abbastanza. Banda laterale sono tanti, ma ti ripeto, non lo uso spesso, lo uso solo quando c'è casino, quando c'è il parappo incasinato che non ti fa entrare, allora attacchi e su che andiamo. Costa anche 700 euro quella lineare, però io l'avevo preso da un radiomatore, ma ha proprio fatto un prezzo da amico, me l'aveva fatto fare 450. E ci ha trattato bene. Vabbè, se però non lo usi, cosa ne fai? Vedi di... No, Toro, mettete forza. No, già lo uso io, si è qua. Mi attacca qua, c'è attaccato. Quando mi serve l'HF lo uso, quando non mi serve non ce n'è problema. Se c'è propagazione, adesso ad esempio c'è. Adesso c'è un sacco di propagazione, non c'è manco bisogno di attaccare il lineare. Quando schiacci già ti sentono 100 watt. No, io stavo dicendo il valvolare, non la remita, già lo so che non sei usato. No, quello della Kenwood, è un TL911, prima del 922, no, c'era una vita quello, no, grigio, bello, grande, mi pare che l'avevo mandato anche delle foto, e c'era anche Miraggio Vendì, le valvole sono conservate, le valvole quando tu non le usi non è che si rovinano, devono essere involte in una certa maniera, non devono prendere umidità, quando usi il lineare le attacchi le valvole, accendi l'amplificatore, lo lasci almeno 12 ore acceso senza usarlo in modo che le valvole si accoppino, ok, e poi lo usi. Me ne abbracci ogni volta, vediamo un po' se quella persona che sta usando due mani ha finito. Sì che ho finito poco fa. Mi prendi allora, ciao Carlo, buonasera. E ciao, io mi c'ero da prima, infatti ero con Claudio, era entrato Roberto che stava provando una radio ma non si capiva nulla, poi c'era anche Luca, mi ha detto che gli è arrivata l'antenna, forse domani riesce a piazzarla, e anche Giovanni è entrato da Platamona, non so se era in macchina che rientrava, in camion. Lo sentivo passo passo, ma già lo sentivo, e se lui mi ha sentito vuol dire che arrivavo sin lì. Tutto qua. Giannino, cosa stai combinando? Niente di bello. Tutto ok, dai, però. Come stavo dicendo, sì, Giovanni Stanco, è possibile che fosse in carico perché fa quel lavoro lì, è autista. Giovanni Stanco. Sì, era da molto che non lo sentivo, l'ho sentito un attimo, infatti l'ho salutato, ma era molto basso, capito. E mi ha detto, sono quasi arrivato adesso, probabilmente era col camion rientrando, capito. E nulla. E Claudio, stamattina ho visto le tue antenne che sono salito a Osilo ed ero con mia figlia facendogli un po' di scuola guida, per cui stavo guardando io anziché guidare. E siamo passato dalla vecchia strada e sono passato dalle tue parti, ho visto tutte le antenne dalla strada. Ma le mie? Sì signore. In primavera le vedrai dalla circonvallazione, mi sono deciso, basta. Questa vabbè è troppo bassa, però già, insomma, già mi sentite tutti, non c'è problema. Però la metto più alta e la finisco di sistemare. Poi l'altra, quella che vuole la tua, quella la sposto e la metto a fianco alla casa, che c'è il muretto più alto, capito? Poi di puli, vabbè, di puli lascio stare così. E quelli, anche se stanno bassi, già vanno lo stesso, penso, i puli, no Claudio? Sì, beh, quelli sono agganciati sopra, scendono a V invertita e poi hanno la palificazione da 2 metri, non è che sono attaccati a terra, sono attaccati a dei pali da 2 metri che qualche mese fa me li hanno buttati i cinghiali, comunque adesso li ho messi diversamente, sono i picchetti, capito? Dove attaccano gli isolatori. HF è una bomba, soprattutto 40 e 80, un po' meno in 15 e in 20, però 10, 40 e 80 e 50 mega sono abbastanza attivo, non mi posso lamentare. Tu buscati, ma non si dice, no, stavo pensando una cosa, non si dice, no, scusa. Invertita. Cosa che avete parlato in due, Carlo? Chiesto, quando lo metti a V invertita dovrebbe essere omnidirezionale la propagazione del dipolo. Esatto, i bracci ce li ho tutti a nord, quindi è aperto a 360 gradi. Ho detto, Claudio, buscati un fucile a palla, quando passa i cinghiali di... Fucile a palla, buscati, perché non c'ho il porto d'armi, c'ho la pistola io. C'ho la 9x21. C'ho la 9x21, ma io non riuscirò mai ad ammazzare un animale, guarda, tu immagini, mio padre era cacciatore. Mia madre ha sempre conservato la cartucciera, anche il fucile, aveva un diana di quelli vecchi, molto bello, che poi abbiamo dato al compare di mia mamma, che era cacciatore. Mi diceva sempre, mamma, prendi il porto d'armi, così te ne vai a caccia e usi la tentatura di tuo padre. No, no, non ci riesco a ammazzare gli animali. Anche io sono così, io ho fatto una battuta, ma anche io sono animalista, non mi piace ammazzare gli animali, preferirei ammazzare certe persone, quello sì. Isso, lascia perdere, ma vengono al cancello già, perché io gli avanzi di quando pulisco la verdura, le cose, e a volte faccio proprio il pane duro, no? Il pane, lo faccio diventare duro e poi glielo metto fuori, anche le a volte le metto anche crocchette di Filippo eccetera, ma vengono lì vicino al cancello, non riesco a... mi lamento sì perché fanno danno, stanno sempre scavando e facendo, però non riesco ad ammazzarli io, assolutamente. Vicino a casa, Claudio, dove porto io il cane, sembra che abbiano aratto tutto attorno agli alberi, tutto scavato, ma proprio fatto bene, sembra aratto. E anche qua, io quando raso il prato, che c'è una erba con il cestello, quindi lo raccoglie direttamente l'erba, non me la lascia, e poi svuoto il cestello, gliela svuoto fuori la mattina, lì domani mattina non ce n'è, però gliela divido, magari metto un cestello a loro e poi gli altri due cestelli scendo all'ingresso, ci sono i cavalli e lo butto ai cavalli, l'erba fresca, capite, se la mangiano. Chiatta, ma se gli la maglia poi butta di attiri. E non male che venga, non si viene da mangiare, si abituano, sanno che viene da mangiare, vengono lì. Avanti in casa. E i cinghiali, insomma, già ne fanno di danni, ho visto anche la rotatoria alla fine del Ponte Nuovo, nella parte bassa, no? C'è la rotatoria che è un po' in discesa, diciamo, nella parte bassa lì mettono a posto con le zappe e dopo due giorni ripassa ed è tutta rivoltata la terra. Sembra che sia passata la moto zappa, capito? Lavoro fatto di precisione. Salgono i cinghiali lì quasi tutti i giorni. E intanto non ne hanno a portare uso, anche i maiali. Ai maiali perché li mettono in uvirito? Perché se no si fa la riposa e se ne scappa. Li mettono in uvirito qua, quello che chiamano uvirito, poi non lo so, voi sapete come lo chiamano. E il piercing le mettono? Sì, esatto, io me li ricordo i maiali col fil di ferro, capito, sul muso, per non scavare, capito, se no ti fanno un sacco di danno, capito. Però il maiale domestico era così, il cinghiale invece maledetto. E poi in quella zona lì è pieno, dalle parti tue, là. Io qualche settimana fa, lo stesso che c'ero passato, addirittura era una domenica mattina e ho visto un sacco di gente con la giacca arancione, erano cacciatori, però nella strada nuova erano, capito, proprio prima del rettilineo finale, che lì c'è una zona con cespugli, eccetera, c'erano roba di 5 o 6 persone col fucile, evidentemente era qualche battuta di caccia. Ma noi abbiamo fatto la richiesta alla forestale per stanarli, capito? Perché sono praticamente nella mia vallata all'esterno della casa, no? All'esterno del giardino, e poi saltano la strada, saltando la strada creano incidenti stradali e ne sono successi parecchi qua, e quindi abbiamo chiesto alla forestale di far fare una battuta cioè in quell'ambito lì, capito? Infatti la domenica mattina, il giovedì mattina, ci sono i battitori che stanno nella strada, battono sul guardrail per farli uscire, e i cacciatori sono appostati e li sparano. La settimana scorsa ad esempio ne hanno preso 6, quelli di Osilo, la compagnia di Osilo. Vuol dire che ce n'è, maledetti, e poi fanno danno, se lo becchi con la macchina. Ne ho visto io tanti incidenti, anche l'anno scorso andando a lavorare eravamo io e mio collega, una signora proprio lì a rettilineo di Tottubella ha preso in pieno la scroffa, capito, che era incinta, l'ha presa, gli ha squarciato la pancia, gli sono usciti tutti i maialetti, uno era ancora vivo, dovrei avere ancora il video conservato, capito, una cosa impressionante. Ed è pieno, la macchina gli ha fatto un danno davanti, tutta distrutta, e poi c'erano i carabinieri, sono arrivati e stavano dicendo: signora, se vuol fare la denuncia, solo che i fondi regionali mi sa che sono finiti, quindi non lo so come si metterà per lei, noi le facciamo il verbale adesso di incidente, insomma, che ha preso il cinghiale, l'abbiamo visto noi, il cinghiale era lì a terra, capito? Però tanti, anche a me, lo stesso, almeno 8 mesi fa, io in macchina e il mio collega dietro mi è passato davanti il cinghiale, stavo andando piano, ero nel sottopassaggio per rimettermi nella 4 corsie, passano tutti da là sotto, è una cosa micidiale, quindi speriamo che facciano più battute per farli fuori. E io vicino a casa, ho visto dove c'è la pinetta lì, la Badivalla, lì scendono tutti lì in via Bologna, nella rotatoria che c'è, poi scendono giù dove portiamo i cani, che c'è l'erba e cosa. E ne sono scesi una sera, alle 9 di sera in estate, però si è messo a maiare, non capivo che cos'era, mi giro a casa, vedo 9 cinghiali, 2 grossi, poi gli altri più piccoli, qualcuno medio, guarda, tutti insieme, io se quelli ti attaccano qua, sto zitto, che se cazzo vengono quelli con le zane ti fanno un uomo. Io ho visto su internet un cinghiale che ha alzato il cane, gli ha dato un colpo e l'ha alzato 3 metri da terra. Già, l'anno scorso ho seduto in veranda l'estate, pare che era luglio o i primi di agosto, ho seduto in veranda e sto fumando una sigaretta di sera, verso le 10, così al fresco, 10:30, ha inteso un tocco, esce Maria Gara, e subito questo che è sceso dalla macchina a bordo, me lo vedi, fatta è. Ho preso subito la macchina, sono uscito dal cancello, sono andato lì, c'era il cinghiale per terra, la macchina da buttare via. E questo disperato, perché la macchina era nuova, cioè un anno e mezzo di vita, disperato. Come te vai? Sono arrivati la municipale, è arrivato i carabinieri, è arrivata la compagnia baracellare, perché era proprio al, se io dove abito io c'è una semicurva, no? L'hai vista o Carlè? No, quella che arriva da Uso con la semicurva, è successo proprio lì, quindi era anche pericoloso al buio, e quindi subito lampeggianti, via, a destra, a sinistra, insomma un casino, questo ci ha rimesso la macchina, completamente da buttare via. Figurati tu che gli ha schiacciato tutto davanti, il motore gli si è staccato, le sono staccate le zanche del motore, il motore era per terra, proprio da buttare via. E anche un appartatore con la barchetta della Fiat l'aveva preso una e se l'ha distrutta la macchina. No, quando di bigliare un cinghiale già non ti salvi, che sia piccolo o grande, fai danno, ma un bel parò, lo ammazzi perché lo ammazzi, secondo dove lo prendi lo ammazzi, se no può anche scappare, però stai pur certo che la macchina, il danno che ha è indescrivibile, no? Non ci sono parole a dirlo. Vai Carlo. Sì, no, il cinghiale maledetto, lo vedano, e ne ha fatto di danni. E anche da poco, adesso non mi ricordo se era in provincia di Nuoro, era morto un medico e ha preso il cinghiale in pieno, stava rientrando, aveva una fanda, ha preso il cinghiale e l'ha buttato fuori strada, poi lui è morto perché magari, capito, è rimasto schiacciato nella macchina, si è ribaltata. Quindi in un modo o nell'altro sempre grossi danni ti fanno queste bestie, e ce ne sono troppe, capito? Quindi la caccia grossa, secondo me, la devono lasciare aperta tutto l'anno, così cacciatori, capito? Almeno qualcuno in più lo ammazzano. Cavolo, è pieno. C'è stato un periodo che noi la vedevamo la carne di cinghiale. Non so come era gestito, però le avevano abbattuti alla Sinara e vendevamo la carne di cinghiale in macelleria. Cavolo. Infatti stavo giusto cercando, non lo so se ti fa impressione il cinghiale morto, il cinghialetto che gli è uscito dalla pancia, non te lo mando già, se no te lo mando su WhatsApp. No, non mi fa impressione. Ho visto le persone a pizio, figurati se mi può fare impressione un cinghiale. Così lo vedi. Questo è successo un annetto fa, ed ero con un mio collega e l'ha girato lui, capito? Insomma, la macchina gliel'ha fatta numero 8 davanti, cofano aperto, il liquido che ne usciva, radiatore spaccato, insomma un sacco di danno, capito? La signora, poverini, maialini, poverini, ho detto, è poverina la tua macchina. E il fatto che non devi prima comprare da mangiarti, e quelli sono anche te. Sì, ciao. Guardati le foto del cinghiale sulla strada e poi c'è il video, guarda, come gli ha aperto la pancia, capito? Gliene sono usciti i cinghialetti e ce n'era anche uno vivo ancora. Mi allontano un secondo, mi sembra che ho sentito la voce Emanuele, tu sei Emanuele? Sì, buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao Gianni. Saluto anche all'altro amico che lo sento passo. Ciao Emanuele, buonasera, ben ascoltato. Mi allontano un secondo, l'altro amico è Carlo, c'è anche Gianni, vai già. Ciao Emanuele, ciao, mi hai sentito, avanti. Non lo sento a Carlo, lo sento basso, però pio, non riesco a capire quello che dice. Vai tu già. Siete tutti e due con l'antennino, per quello è... Ciao Emanuele, io già ti ho sentito, basso ti ho sentito. capito, adesso vedo i prossimi giorni se riesco a mettere qualcosa di più performante qua per la ringhiera, capito, perché ho messo un'altra antenna ma mi sa che era meglio quella di prima. Adesso l'ho sentito, adesso ti ho sentito Carlo. Eia, va bene Emanuele, ho capito che mi hai sentito adesso, sicuramente ti arriverò passo passo. Ehi, ma anche il problema lì è per l'antenna, io sono un'antenna di macchina lo stesso, anche il mio problema. E io sono in situazione d'emergenza, ho fatto giusto un collegamento così, volante, nel terrazzino di casa, capito? Non ho l'antenna sul tetto, Manuè. Riprendi pure Gianni, hai visto il video? Ehi, a cavolo, poverino, ma non avrà campato. Dai, mi assento un attimo già. Sarà morto, ehi, Manuè. Solo sarà morto sicuramente quel cinghialino. Sì, sì, poi che c'era freddo, avevamo il turno a mezzanotte, quindi quando siamo passati lì erano mezzanotte meno 20, capito? Stavamo andando a lavorare, c'erano roba di 2 gradi, 3 gradi massimo, quindi col freddo sicuramente i cinghialetti saranno morti poi. Cappaga. Ma... E lì intervengono di solito quelli della forestale, ti pagano con l'assicurazione della strada, dovrebbe essere così, perlomeno a quanto l'ho sempre sentito io, perché non ho mai soffritto, grazie a Dio. Sì, ci sono dei fondi regionali che però mi sa che sono molto limitati. In passato c'erano un sacco di fondi e poi a furia di risarcire danni, adesso danno molto poco, ho sentito così, chi me l'ha detto è un carabiniere che lo stava dicendo perché era successo un incidente, capito? E quindi dice gli rimborsano tutto, no, non è così, non è più come prima. Se ci sono i fondi, capito, allora ti rimborsano, se no ti dicono che purtroppo quel fondo su gli incidenti con gli animali sulla strada è poco finanziato e quindi danno solo una piccola percentuale, così sapevo io. Quello che l'ha avuto con la barchetta della Fiat, il produttore, se non carabiniere, e l'ha preso, ha sbarrato tutta la macchina, non serve più. Andando al ghetto lo stesso, lì, in quella zona lì, Portoferro mi pare che fosse. E quello che ti ho mandato, l'incidente con i cinghiali, è successo poco dopo Totubella, dove c'è Bonassai, no? 200 metri più avanti, c'è un dosso col rettilineo, proprio lì, capito? E la signora dice che stava camminando anche piano, era 80-90, non di più, capito? Ma tu dovevi vedere questa macchina come gliel'ha fatta, numero 8, capito? Hai visto la pancia squarciata, ne sono usciti i maialini, cavolo. Probabilmente è uscito di colpo il cinghiale, magari non ce l'ha fatta frenare e l'ha pigliato in pieno, perché poi escono tutti insieme, capito? Uno riesce a scartare, poi prende l'altro che c'è dietro. Esatto, lei dice stava camminando, non si è neanche accorta, ha sentito il botto, evidentemente il cinghiale ha attraversato correndo, capito? Già la macchina che camminava e il cinghiale correndo, capito? Ha frantumato tutto, capito? Ha fatto un danno. Il cinghiale, la scroffa è morta sul colpo, invece i cinghialetti che ne sono usciti, uno era morto e l'altro era vivo, capito? E magari stava per partorire. Eh sì, probabilmente sì, perché erano anche abbastanza formati, già li hai visti. E poi quella signora che li ha beccati diceva forse ce n'è anche altri dentro la pancia perché ho visto muovere qualcosa. E io ho detto quelli muoiono tutti adesso. Poi noi siamo andati via e i corsi carabinieri di domani ci hanno detto che li hanno portati tutti a Bonassai perché hanno anche qualche avvoltoio lì e si mangiano tutto quelle bestie, capito? Se non li hanno messi tutti, capito? Così dicono, magari si rimane niente. Perché un amico mio che faceva dei lavori lì alla Sinara dice che se si quelli della forestale mettevano le trappole per i cinghiali si rimaneva. Sì, sì. Vai pure Emanuele, vai tu. No, è magnetici. Vabbè. Sono pericolosi i cinghiali, ma la sorte. Ed è pieno adesso, è tutto pieno, perché fanno anche 12 figli alla volta questi animali, quindi ti puoi immaginare come si prolificano. Sì. Aspetta già, dammi un attimo che devo rispondere a una chiamata dal lavoro. Papà, non c'è problema, sono qua. Eccomi già, è dal lavoro perché c'è un collega che si è assentato e quindi mi stavano chiedendo se potevo spostare il turno dopodomani. Entravo alle 6:30, se posso anticipare alle 6 di mezz'ora, ho detto per me ne vado mezz'ora prima ovviamente. Ho detto di sì perché mi avevano già mandato un messaggio, capito, era per avere la conferma se avevo problemi o meno, ho detto no, anzi così me ne rientro prima, tanto molte volte mi sveglio anche prima perché sono abituato così ormai, per cui mi tocca poi aspettare e allora tanto vale e anticipo. Alle 5 ti svegli quando vai alle 6? Sì, mi sveglio alle 5. Tanto vado a letto presto, mi guardo la partita, domani c'è Cagliari-Juventus, capito, e niente, e poi devo essere a lavoro alle 6, ma tanto la partita finisce 10:30, 11 meno un quarto, capito, e poi come finisce la partita me ne vado a letto. Io quando dormo quelle 6 ore, 7 ore, per me è grasso che cola. Anche io, vabbè, in questo periodo sto dormendo bene, sto dormendo molto in questo periodo. E oggi per esempio ho dormito sino alle 8:20, cosa che mi succede raramente perché sono libero, capito? Quindi non mi ho messo sveglia, mi sono svegliato intorno alle 5, però ho guardato la sveglia, mi sono rigirato e ho ripreso a dormire, capito? Quindi anche io, diciamo, in questo periodo già, se mi lasci già dormo, capito? E ho fatto 62, altri 5 me ne mancano e poi avrò tutto il tempo a dormire. Oh Carlo, io non mi vergogno a dirlo, ieri mi sono svegliato alle 10:10, però la mattina prima alle 5 sono andato in bagno, tutto un altro, poi mi sono coricato di nuovo, mi ho messo la coperta bella calda e mi sono fatto una bella dormita sino alle 10:10. E penso, sino a che non mi ripreso io, non si alza, sta lì sino a quando mi alzo io. Poi ho detto, se ci alziamo. E lui mi ha guardato, come dire, io non si lamenta niente. Poi mi lavo tutto quanto e lo porto subito giù, poi faccio tutto il resto. Sì, io stamattina, come dicevo prima Claudio, stavo facendo un po' di scuola guida a mia figlia e allora sono passato a prenderla e quindi lei da sotto casa loro e praticamente da via Dao siamo partiti e siamo scesi via Luna e Sole, via Livia, via Luna e Sole, tutto via Luna e Sole e poi abbiamo tirato su verso Monte Bianchino, poi abbiamo girato dove c'è il serbatoio e ne siamo usciti nella strada di Osilo. Allora ho detto, allora faccio un giro grande, ho detto saliamo a Osilo e scendiamo, quindi siamo saliti dalla strada vecchia e poi abbiamo attraversato il paese e poi in fondo giri a sinistra e riprendi e ne esci sulla strada nuova, poi passi dove c'è la ferrovia, il passaggio a livello, capito, e poi ne esci dall'altra parte, diciamo, e fai la strada nuova, esci da una parte, poi puoi girare verso Nulvi, capito, l'Anglona, tutta quella zona, e quindi poi siamo rientrati a Sassari e avevamo il cagnolino in macchina, capito, e poi a un certo punto si stava lamentando, quindi rientrando allora mia figlia gli ho detto, e passa da Piazza dei Segni e giri a sinistra, ho detto sali su al tappetino, ci sono i giardini per il giardinetto per i cani, l'abbiamo portato lì, c'erano altri cagnolini, quindi siamo rimasti una mezz'oretta lì, capito, non c'era freddo, anche se era un po' nuvoloso, però era accettabile stamattina la mattinata. Vai Gianni. E beh, crescendo sta. 4 mesi c'ha adesso, ancora è piccolina, però già sta crescendo. E vabbè, il bassotto rimane bassotto, però già si allunga. Si allunga, sì. E qualche giorno fa lo stesso siamo scesi a Platamona facendo scuola guida e l'abbiamo portata al mare, capito? E l'altro giorno era bella giornata, verso le 10 del mattino, c'era anche caldo, c'era il sole, c'era il mare che era un olio, seppure bagnata, è entrata con i piedi, capito? E si è bagnato un po' di sotto pancia, capito? Però poi lì con la sabbia poi già si è asciugata e stava correndo, prendendo bastoncini di legno, pezzi di canna, e di tutti i rigurori ne ha fatto quella cagnolina, capito? E non si stanca mai. Perché quando sono così piccoli gli piace giocare, correre, fare. Poi i bassotti sono particolari. Uno dice, io non ho un cane, c'ho un bassotto. Lo so, infatti hanno un caratterino, sono piccoli e loro pensano di essere leoni, capito? Anche con gli altri cani lei si avvicina senza nessun timore, capito? Anche cani più grandi. Non gli fanno niente a chi la vede nei piccolina, capito? Quindi non, i cani non gli fanno niente, quelli più grossi. Infatti lì c'è il giardinetto per i cani grandi e il giardino per i cani piccoli, capito? Perché qualche volta i grandi giocando qualcuno gli fanno male, capito? E allora l'hanno diviso quel giardinetto. Sì, quei cani lì, per dire, Tyson, quando vede i cuccioletti ci gioca, però sta attento, non li fa mai male. Ci gioca, li fa giocare, salta e loro saltano lo stesso e giocano. E rispetta sia i cuccioli che i barboncini. I barboncini, anche se sono maschi, non li fa niente, perché sa che sono bravi, se ne accorgono. Invece con gli altri cani maschi, mamma mia, meglio non avvicinare. Sì, ho visto che ci sono alcuni cani, anche con la museruola, ho visto che ci portano poco male quando hanno la museruola, capito? Però se poi si affarrani, eccetera, è un casino. Invece quando sono insieme a quelli di piccola taglia è meglio. Non vi fidate mai dei pitbull, perché ho visto un pitbull che prendeva un cuccioletto dalla padrona e gliel'ha portato lontano e se l'ha fatta tutta a pizza. Lo so, ma non è che ce ne sono tanti adesso, c'era un periodo che in città ce n'erano un sacco di quei pitbull, ultimamente ne sto vedendo di meno, però evidentemente è passata la moda, anche perché poi sono cani aggressivi, ti creano un sacco di problemi e la gente poi alla fine lo capisce che non ne vuole problemi e magari punta su un cane più tranquillo. Ma infatti poi sono cani praticamente ingestibili, non si possono gestire quel tipo di cani. Io ho visto su internet in 4 o 5 che cercavano di strappare questo bambino a un pitbull che l'ha agganciato e lo stava tirando, capito? Solo che tirando, strappi, è sbagliato tirarlo, bisogna cercare di aprire la bocca senza tirare, perché se no strappi la carne, perché lì c'è dei infilati, capito? È un casino, guarda, la mamma che gridava in terra, non sapeva cosa fare, questo bambino piccolo che gridava, in 4 o 5, poi alla fine ce l'hanno fatta, il padrone l'ha allontanato subito e l'hanno chiamato l'ambulanza, l'hanno soccorso questo bambino, ma intanto la grafa 2. Lo so, non so se ti ricordi qualche anno fa, era successo a Porto Torres un cane che aveva aggredito lo stesso proprietario, il fratello, capito? Aveva fatto un casino, non mi ricordo che era tipo pitbull, un cane del genere. Io a uno spuntino l'estate scorsa ho trovato proprio la persona che era stata aggredita, capito? Il cane era del fratello, mi ha fatto vedere tutte le cicatrici al braccio e niente, questo cane non si sa cosa gli è preso, l'avevano scritto anche sulla Nuova Sardegna, capito? Era sulla macchina, lui dice ha aperto lo sportello per farlo uscire, non voleva uscire, dice che non so, ha fatto un cenno con la dai esci, e la si è lanciato contro il braccio, non lo mollava, non lo mollava.